Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Tra Libia, Malta e l'Italia, la rete che contrabbandava gasolio in Europa, 6 arresti, mentre sull'omicidio della giornalista una pista porta ai narcotrafficanti italiani. Banca d'Italia, l'attacco del PD sorprende Padoan e governo, l'ira di Mattarella, oggi al via i lavori della commissione sulle banche. Autonomia, alla vigilia dei referendum in Lombardia e Veneto, l'Emilia-Romagna si muove e apre le trattative con l'esecutivo. Ultimo concerto il 19 dicembre, Elio e le Storie Tese si sciolgono dopo oltre 30 anni di attività, scadremo come la mozzarella, dicono. Calcio, dopo la sconfitta del Napoli a Manchester, questa sera tocca la Juventus contro lo Sporting Lisbona e alla Roma contro il Chelsea. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Dall'altra parte del vetro ci sono Laura Faggini in assistenza in redazione, Paolo Corleoni in regia, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e come sempre c'è la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo anche in diretta video, la pagina Facebook di Radio 24, la pagina Facebook di Effetto Giorno. Oltre a quello che avete sentito nei titoli, lo diciamo per gli appassionati del genere, oggi torneremo sulla vicenda di Igor il Russo, l'imprendibile assassino del barista di Budrio e di una guardia ecologica. Iniziamo dunque però con le notizie che riguardano questo traffico di gasolio che partiva dalla Libia, arrivava a Malta, arrivava anche in Italia. Il servizio. Abbiamo 5 italiani, 2 libici e 2 maltesi. Considera i 2 libici, il Ben Khalifa, che è il capo della milizia, a noi ci risulta essere comunque stato arrestato a fine agosto dal governo libico ufficiale. È il tenente colonnello della Guardia di Finanza Francesco Ruiz a riassumere le 9 ordinanze emesse nella operazione Dirty Oil, un'associazione per delinquere internazionale finalizzata al riciclaggio di gasolio libico, sottratto in modo illecito alla Compagnia Nazionale Libica, transitato su Malta attraverso la compiacenza di società commerciali e poi arrivato nei porti di Augusta, Civitavecchia e Venezia, nei depositi fiscali di una società italiana, la Maxcom Bunker, non l'unica italiana coinvolta. Abbiamo accertato la presenza di un'ulteriore associazione a delinquere che acquistava questo prodotto dalla Maxcom e lo canalizzava presso i distributori stradali. Dunque un lungo percorso per questo gasolio che finiva poi in tutta Europa. Il fornitore, Ben Khalifa, era a capo di una milizia armata. I proventi andavano a finanziare la milizia stessa. È chiaro ed evidente che sono le stesse milizie che trafficano droga, che trafficano migranti, che si dedicavano anche al contrabbando internazionale di petroli. Centrale poi il ruolo delle società maltesi. Perché riescono, attraverso la loro collaborazione di società che svolgono intermediazione, favoriscono l'occultamento della provenienza delittuosa del bene. Contestata anche l'aggravante mafiosa, considerata la presenza nella stessa associazione di Nicola Orazio Romeo, ritenuto vicino alla famiglia dei Santa Paola. Ma su questo la procura di Catania aspetta ulteriori riscontri. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E potrebbe avere una propagine italiana anche l'inchiesta sull'uccisione della giornalista maltese. La pronuncia in italiano, Savio Balzan, quella che secondo lui è la matrice dell'attentato alla collega Daphne Caruana Galizia, riconosce uno stile mafioso. Il giornalista ed editore maltese dietro l'autobomba che ha fatto saltare in aria la blogger che svelava i misfatti di corrotti e potenti. L'auto noleggiata, l'ordigno attivato con un telefono, il pulsante premuto da qualcuno che forse dalle colline nei dintorni scrutava con un binocolo gli spostamenti della cronista per poi premere il pulsante, proprio come avvenne con l'attentatuni di Capaci. E anche se sull'isola sono già 7 le autobombe esplose in poco più di un anno, ora gli investigatori ipotizzano anche una pista italiana dietro il clamoroso omicidio della giornalista più nota di Malta, che dopo aver fatto i nomi delle società offshore, di membri del governo e della moglie del premier, con contatti fino in Azerbaigian, ora si stava occupando di droga, dei traffici di droga che si incrociano con quelli di petrolio in questa enclave dell'Europa divenuta nel tempo approdo di soldi sporchi, frutto di evasione e del riciclaggio del gioco online illegale. Tanto che la Commissione parlamentare antimafia italiana aveva già programmato per lunedì una missione a Malta. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Resta in primo piano lo scontro sulla Banca d'Italia dopo la mozione voluta dal Partito Democratico che, pur non citandolo esplicitamente, chiede che il mandato di Ignazio Visco non sia rinnovato. È intervenuto tra l'altro pochi istanti fa Walter Veltroni. Facciamo il punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno, quello che dovevamo lo abbiamo detto ieri. Matteo Renzi tiene il punto sulla mozione parlamentare per aprire una nuova fase in Banca Italia. Il segretario del PD non avrebbe avuto nessun contatto con il Quirinale, ma i suoi ha raccontato di aver sentito il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che gli avrebbe chiesto di ammorbidire la mozione parlamentare Dem su Banca Italia, e Renzi ha dato il via libera a una correzione del testo, conscio però che non ci siano alternative, perché il PD non poteva votare a favore della mozione 5 Stelle né contro, altrimenti i giornali avrebbero scritto che i Dem brindano Visco. La scelta sul governatore dell'esecutivo, dice poi Renzi, noi l'accetteremo qualunque essa sia, ma non potevamo non dare un giudizio su questi anni. Arriva però subito una critica da parte di Walter Veltroni e scricchiola quello che c'è stato sabato scorso al Teatro Eliseo per i 10 anni del PD. L'ex segretario dice che è incomprensibile e ingiustificabile la mozione PD su Banca Italia, che è da sempre un patrimonio di indipendenza e di autonomia per l'intero paese. E ci sono anche altre critiche all'interno dei Dem, il presidente della Commissione Industria nel Senato Massimo Mucchetti, e al di fuori critico anche Bruno Tabacci di Centro Democratico, che parla di mossa inappropriata, e Renato Brunetta di Forza Italia, che dice, che definisce quanto è accaduto un fatto gravissimo. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Vediamo però quali sono i casi al centro dell'attenzione, i casi bancari al centro dell'attenzione, e dei quali da oggi si occuperà un'apposita commissione. La risoluzione delle quattro banche a novembre 2015, Etruria, Marche, Carichieti, Cariferrara, la crisi delle popolari venete, Veneto Banca e Vicenza, senza dimenticare il Monte dei Paschi di Siena, sono questi i casi più recenti sotto la lente che potrebbero portare alla non conferma di Ignazio Visco, governatore uscente di Banca d'Italia, accusata di non aver vigilato a sufficienza. Al lavoro c'è anche la commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, ci spiega Enrico Zanetti. Ancora non stiamo, purtroppo, ribadisco, nonostante una certa pressione anche da parte nostra, non stiamo ancora lavorando su quasi concreti, però è evidente che nell'istante in cui è stato sposato il criterio di partire dalle cose più recenti, i primi casi che dovremo affrontare, quando finalmente li affronteremo, saranno quelli legati alle due banche venete e alla risoluzione delle quattro banche dell'Italia centrale, quindi i due casi più recenti che hanno scosso non poco le fondamenta del sistema e del nostro sistema bancario e anche della fiducia dei risparmiatori. Nel mirino anche Banca Italia e Consob, no ad accuse e difese a scatola chiusa, ma bisogna capire se hanno operato bene. Dei dubbi ci sono, è legittimo, sono successe delle cose macroscopiche, è folle pensare di poter dire che non c'è niente da verificare e che hanno lavorato sicuramente bene, sicuramente proprio no. Se Visco vacilla, il destino del numero uno della Consob, Giuseppe Vegas, è certo. Il mandato di 7 anni scade a dicembre e non è rinnovabile. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si avvicinano i referendum per l'autonomia di Veneto e Lombardia. Interviene il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che dice che dopo questi referendum vogliamo proporlo per tutte le regioni italiane, spostare la competenza di 11 materie dal centro alla sede giusta, quella regionale. Nel frattempo però si muove, autonomamente è il caso di dirlo, l'Emilia Romagna. Sentiamo. L'Emilia-Romagna sorpassa in curva Veneto e Lombardia. Questo potrebbe rappresentare l'incontro chiesto dal governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che potrebbe tenersi già domani o giovedì, e che è finalizzato a ottenere il via libera del governo a una maggiore autonomia dell'Emilia-Romagna. La regione quindi rischia di bruciare sul tempo Veneto e Lombardia, governate dal centrodestra e che domenica saranno chiamate alle urne per il referendum sull'autonomia. Bonaccini sta aspettando in queste ore la conferma ufficiale dell'incontro, che dovrebbe sancire la via emiliana al percorso autonomista. Niente referendum, come nelle due regioni del nord, ma un percorso istituzionale avviato dall'Assemblea legislativa lo scorso 3 ottobre con l'approvazione di una risoluzione ad hoc che ha impegnato Bonaccini ad avviare il negoziato con il governo per ottenere forme condizioni particolari di autonomia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di autonomie, trattative sono in corso fra le componenti del fronte indipendentista catalano per una possibile proclamazione della Repubblica Catalana se allo scadere dell'ultimatum di domani alle 10 Madrid applicherà l'articolo 155 della Costituzione che appunto revoca l'autonomia catalana. Andiamo all'estero e ci spostiamo a Raqqa. L'indomani della presa di quella che fu la capitale del califfato in Siria si impone un interrogativo se l'ISIS sia finito oppure no. L'analisi di Alberto Neghi. La caduta di Raqqa è la fine dell'entità territoriale del califfato, ma non dell'ISIS e neppure della guerra. I jihadisti continueranno a costituire un pericolo con la guerriglia e il terrorismo. Al-Qaeda nel 2001 venne cacciata dall'Afghanistan, ma trovò modo di insediarsi in Iraq, nel Maghreb e in altre aree musulmane. Allo stesso modo, migliaia di combattenti del califfato ancora in Siria si preparano a trovare nuove mete, come la Libia, il Sinai, lo stesso Yemen o l'Africa. Inoltre c'è il pericolo del ritorno dei combattenti europei, i foreign fighters. Per individuarli e catturarli bisognerà scendere a patti con Assad, che controlla la maggior parte del territorio. Non è la fine della guerra, perché i curdi siriani, che hanno vinto a Raqqa, vorranno un forte grado di autonomia osteggiata dalla Turchia, mentre i curdi iracheni, anche loro avversari di Ankara, devono subire l'avanzata dell'esercito di Baghdad. Sono i paradossi di questo conflitto assai complicato. Qui si scontrano interessi e alleanze delle grandi potenze come Stati Uniti e Russia e degli attori locali. Oltre alla Turchia, riottoso membro della NATO, ci sono l'Iran e Israele, da sempre sull'orlo del conflitto. Non solo, bisognerà ricostruire la Siria e dare ai sunniti sconfitti qualche compensazione politica ed economica. In Medio Oriente nessuna vittoria, per quanto clamorosa, come la caduta della capitale del califfato, è mai definitiva. Parliamo di musica adesso e del fatto che Elio e le Storie Tese hanno annunciato che si sciolgono. Eravamo fidanzati, poi tu mi hai lasciato senza addurre motivazioni plausibili. No! Da che anno siete insieme? Dal 1985. E fino a quando starete insieme? Fino al 2017. È importante capire quando è ora di dire basta e quando è ora di passare a qualcos'altro. Sicuri? Ma sicuri, sicuri. È stato detto, quindi non si torna indietro. Ora lo scioglimento è ufficiale. In un'intervista alla trasmissione Le Iene, Elio e le Storie Tese hanno confermato che il 19 dicembre al Forum di Assago a Milano sarà l'ultima occasione per vederli dal vivo al loro concerto d'addio. La notizia circolava da mesi dopo l'annuncio fatto in maggio. Dal sito web ufficiale il gruppo sta invitando le Fave, appellativo usato per i fans, ad aiutarla a comporre la scaletta per il concerto. Un evento che suggellerà una grande carriera. La nostra, aveva detto Elio. E alle Iene il musicista ha spiegato le motivazioni della scelta. Ci vuole l'intelligenza di rendersi conto di essere fuori dal tempo. Tipo? YouTuber, rapper, influencer. Queste sono le persone che parlano ai giovani oggi. Cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, e devo stare un po' da sola. Cara ti amo. Dopo 37 anni di successi, di radiofoniche provocatorie e di tour imprevedibili, il 20 ottobre uscirà Licantropo Vegano, l'ultimo singolo di Elio e le Storie Tese, che sarà trasmesso in radio e sarà disponibile sulle principali piattaforme in streaming e in digital download. Cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, non mi voglio sentire legata, va bene. Cara ti amo, amo, amo, amo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, il calcio con la Champions League, inizierei dalla giornata di ieri. Carlo Genta, ce l'eravamo detti proprio a quest'ora e 24 ore fa esattamente, che sarebbe stata presumibilmente una splendida partita, previsioni confermate perché è stata una partita pazzesca. Sì, è stata una partita pazzesca, probabilmente il miglior spettacolo che può offrire oggi l'Europa del calcio, no? Manchester City che sta furoreggiando nel campionato inglese a suon di gol e di vittorie, e il Napoli che onestamente, oltre ad essere bello per gli occhi, è bello anche per le classifiche e per i risultati. Tu mi conosci bene, sai che non indovino un pronostico da praticamente dall'era paleozoica, eppure questo l'avevo beccato. 2-1 è quello che mi auguravo per il Napoli, perché è una sconfitta indolore. La paura era che il Napoli prendesse un'imbarcata, non è stato così, ha anche sbagliato un rigore. e quindi ha così torna a casa con questa sconfitta rimediabile dal punto di vista della classifica, anche se lo Shakhtar ha vinto in Olanda sul campo del Feyenoord e quindi è tutto da giocare, ma lo Shakhtar verrà a Napoli così come il City, e Napoli andrà in Olanda nell'ultimo giro di Walser, quindi la qualificazione non voglio pensare possa essere in discussione. Ieri è stato un eccellente Napoli nel complesso. È chiaro che nel primo tempo abbiamo visto meraviglie da un Manchester City che, oltre ad essere fortissimo, è molto guardioliano. Guardiola si è speso in elogi sperticati per il Napoli, perché non accanisce un effesso, come dicono proprio nella città partenopea. Però si è portato a casa la partita, dunque 2-1 per il Napoli. Tra l'altro, la Champions League di questi tempi può mettere bastoni tra le ruote anche alle big, ad esempio Real Madrid 1-1 in casa con il Tottenham, e ci sono alcuni risultati del 7-0 del Liverpool in Slovenia sul campo del, sì, Maribor, e mi domando continuamente perché certe squadre facciano la Champions League, ma questo è un altro discorso. Stasera tocca alle altre italiane, e attenzione, la Roma va sul campo, va in casa di Conte, va a Londra, dove piove peraltro, con il Chelsea, e anche lì si tratta di resistere. E la Juventus invece gioca a Torino, una partita da vincere a tutti i costi contro lo Sporting Lisbona. Diverse risposte si attendono dalla Juventus dopo la sconfitta in casa con la Lazio, però questo è il piano partita della serata. Intanto, per l'appunto, è cominciata con una sconfitta, ma una sconfitta che tutto sommato non fa così male per il Napoli capolista. Grazie dunque a Carlo Genta, tutti convocati a partire dalle 14, ovviamente con questi temi e altri. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro d'Italia. Andremo innanzitutto a Firenze, dove c'è stato un nuovo stupro di una studentessa americana e un caso di tentato stupro, e ci si interroga sulla sicurezza. Parleremo con il sindaco, parleremo col presidente della regione Emilia Romagna che, come avete sentito nel servizio poco fa di Valentina Furlanetto, tenta di scavalcare, sorpassare in curva la Lombardia e il Veneto prima del referendum e iniziando a trattare l'autonomia con l'esecutivo. E poi sì, ve lo dicevo in apertura, agli appassionati del genere torneremo sulla vicenda di Igor il Russo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, cioè anche la nostra diretta, la diretta che abbiamo sempre sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, la pagina Facebook di Effetto Giorno. Andate là, cliccate mi piace, potete anche attivare delle notifiche per sapere quando Radio 24 è in diretta, così ve lo segnala. Una piccola notifica ve lo dice, e se volete vedervi la diretta ve la potete vedere. Dunque è anche là che siamo. Iniziamo il nostro giro d'Italia da Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Eccoci qua. Nel nostro servizio, nella prima parte della trasmissione, abbiamo detto l'Emilia Romagna sorpassa in curva il Veneto e la Lombardia. L'idea, mi sembra di aver capito, Bonaccini, è che lei vada a trattare con Gentiloni per ottenere l'autonomia senza passare da una consultazione popolare. Sì, noi avevamo già spiegato qualche mese fa, qualche settimana fa, il motivo, cioè nel senso che qua non è una gara tra uno o l'altro, chi è più bravo e chi è meno bravo. Noi abbiamo valutato che spendere 20 milioni di euro per un referendum consultivo che chiede ai cittadini se vogliono più autonomia, che è come chiedere se vuoi bene a tua mamma, fosse abbastanza scontato nell'esito, soprattutto quando la Costituzione non prevede la consultazione referendaria su materie di questo tipo, ma prevede invece che si possa chiedere, non l'ha mai fatto nessuno, al governo di accedere attraverso il comma 3 dell'articolo 116 la richiesta di un percorso che chieda più autonomia. Bisognerà Bonaccini, però in realtà sia Lombardia che Veneto contestano il fatto che loro al governo gliel'hanno detto: apriamo questo capitolo. Il governo ha risposto picche e dicono: a questo punto noi ci facciamo dare un mandato popolare in maniera da poter trattare anche con alle spalle le popolazioni del nostro territorio. Guardi, io rispetto la posizione, peraltro con Maroni e Zaia lavoriamo benissimo in conferenza delle regioni, dove lei sa io sono da 2 anni presidente, però se questo è l'argomento mi faccia dire allora che è abbastanza incomprensibile il motivo per cui Maroni, che è presidente da 4 anni, Zaia da 7 anni, io lo sono da due, alla guida delle loro regioni. Nel 2008 furono ministri del governo Berlusconi che mise in un cassetto la richiesta che Formigoni col governo Prodi stava intentando esattamente come stiamo facendo noi. Cioè, voglio dire, sono anni e anni che con la coincidenza, anche quando ci fu coincidenza di governi al paese o delle loro regioni, non solo non hanno concesso autonomia, ma è stata negata a chiunque quella maggiore autonomia. Quindi io credo di sì, non però, sbagliare. Guarda, a prescindere da questo, a prescindere dalle responsabilità politiche, io le contestavo questo. Le richieste ci sono state, poi non è che non ci siano state. Io non lo so. Io so che si chiede un referendum a pochi mesi dal scioglimento delle Camere e del governo, quando si sa perfettamente che quel percorso difficilmente potrà avere seguito, perché vede, non lo dice nessuno e non so nemmeno se lo sappiate anche voi, ma lei sa che al termine di questo percorso non basta solo la richiesta di maggiore autonomia, perché bisogna indicare le competenze come abbiamo già fatto, serve un voto del Parlamento a maggioranza assoluta, certo, dei suoi componenti, certo, per concederla. Allora, certo, viene da dire, il sospetto, me lo si consenta, legittimo, che non è una critica, è quello che a pochi mesi dalle elezioni politiche il tentativo è un plebiscito su un quesito, ripeto, banalissimo, che è: vuoi tu più autonomia? Tutti i cittadini risponderebbero più o meno allo stesso modo, per andare a trattare, certo, con la forza del popolo, vediamo quanta gente va a votare. Ripeto, noi crediamo di aver fatto quello che la Costituzione prevede. Infatti io questa mattina ho firmato col presidente Gentiloni proprio un'ora fa, e nelle prossime settimane apriremo i tavoli di confronto con i vari ministeri, perché noi il lavoro che da domattina, da lunedì mattina dovranno fare i presidenti Maroni e Zaia l'abbiamo già fatto, cioè abbiamo già indicato le competenze. Quindi, Bonaccini, voi avete già firmato con Gentiloni questo, l'apertura di questa procedura? Sì, sì, un'ora fa, esattamente un'ora fa. Un'ora fa. D'altra parte, 15 giorni fa, io ho avuto il mandato dall'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna e, come avrete letto, io ho avuto il mandato di tutte le parti sociali della mia regione, che abbiamo coinvolto per due mesi a scrivere i testi che sono alla base della richiesta di maggiore autonomia su quattro grandi competenze. Ecco, esattamente questo le volevo chiedere, cioè quali sono i capitoli, sì, sui quali chiedete autonomia? Noi abbiamo chiesto maggiore autonomia per lavoro e formazione professionale, per impresa, in particolare tutto il sostegno all'innovazione, alla ricerca, all'internazionalizzazione delle imprese, alle start-up, perché siamo, lei lo sa, la regione che da tre anni cresce di più in Italia e su questo punta tantissimo per tornare entro tre anni alla piena occupazione. Abbiamo chiesto su ambiente e territorio, perché dai cambiamenti climatici alla riduzione del consumo di suolo bisogna fare un lavoro gigantesco, sì, e sulla salute, perché abbiamo, al pari di Veneto e Lombardia, una delle migliori sanità, io credo, pubbliche d'Europa. Dopodiché, su queste materie adesso si aprirà la trattativa con i ministeri. Io vedo dura che si possa arrivare a conclusione del percorso, per le ragioni che le dicevo prima, con una legge approvata al Parlamento, ma è chiaro che abbiamo piantato una bella bandiera per la quale il futuro governo, il futuro Parlamento, indipendentemente dal colore e dalla maggioranza politica, credo non potrà non tenere conto del percorso che stiamo seriamente facendo. L'ultima domanda che le voglio fare è off topic, come si dice, Bonaccini, sì, e non, sì, non ha a che fare, non ha a che fare, sì, con il referendum sull'autonomia. Mi dà un'idea di come state affrontando voi, come tutte le regioni della pianura padana, in questo momento, come state affrontando l'emergenza inquinamento? Perché c'è, il problema è notevole, ecco. È bene ricordare che l'inquinamento oggi è minore di qualche anno fa, perché sono cambiati il sistema di rilevamento e oggi sono molto più rigidi, ma sono cambiati anche i sistemi di emissione delle autovetture e sono cambiati il sistema di emissione del riscaldamento, ma certamente è un problema pesantissimo, perché siamo in un'area geomorfologicamente complicata, perché è solo pianura, compresa tra monti e vallate, ma soprattutto perché ci abitano in pianura padana il 40% degli abitanti italiani e ci sono centinaia di migliaia di industrie e di imprese. Ora, lei sa però che noi al G7 Ambiente di Bologna, pochi mesi fa, abbiamo firmato, ministro Galletti, io, Chiamparino, Zaia e Maroni, un, sì, accordo per certi aspetti storici. Sì, lo sappiamo, cioè, l'abbiamo parlato volta, ieri con l'assessore, esatto, piemontese. Esattamente, per la prima volta abbiamo detto lo smog non può avere né colore politico né confini geografici. Quindi abbiamo preso alcune decisioni che, ad esempio, dopo quattro sforamenti, quindi non quelli tanti, sì, decine del passato, adesso partono automaticamente le limitazioni. E poi nel giro di alcuni anni bisognerà fare alcune operazioni per le quali, ad esempio, da incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti, al blocco di alcuni tipi di veicoli più inquinanti, come le stiamo dicendo, al fatto che bisogna andare a interventi strutturali per incentivare tutto ciò che ha a fare col risparmio energetico, io credo si debba fare un grande lavoro, ma finalmente, secondo me, ci siamo messi qualcosa dice, qualcosa dice si è avviato. Grazie Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, e saluto Dario Nardella, sindaco di Firenze dell'ALA, la nostra prossima tappa del Giro d'Italia. Nardella, eccoci, buongiorno. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Per parlare di tutt'altro argomento, sono due casi in pochi giorni, ancora Firenze al centro della scena, forse siamo, non so se siamo solamente noi giornalisti che lo mettiamo in evidenza, però fatto sta che una ragazza americana, una studentessa americana, una cittadina americana, ha denunciato di aver subito uno stupro una volta uscita da una discoteca, e un'altra ragazza, questa volta italiana, ha raccontato di averlo rischiato, di aver subito delle molestie pesanti da un gruppo di una ventina di ragazzi e poi essere stata salvata da un venditore di rose del Bangladesh che ha fatto irruzione in mezzo a questo gruppo, ha detto piantatevela, andatevene, chiamo la polizia e vi arrestano tutti quanti. C'è un problema di sicurezza in città, Nardella? Guardi, per le donne, per le donne nella fattispecie. Io sono convinto che non esista un caso Firenze, e questo, ahimè, purtroppo lo sappiamo tutti. Perché la violenza contro le donne e in particolare il femminicidio sono molto diffusi in tutto il paese. C'è un'indagine dell'Istat di poco tempo fa che ci dice che una donna su tre dichiara di aver subito una violenza da un uomo, e addirittura il 10% delle donne hanno subito violenze sessuali prima dei 16 anni. Allora, qui siamo di fronte ad un fenomeno molto vasto. E questi episodi gravissimi, davvero gravi, che hanno riguardato la mia città, Firenze, devono servire ad accendere i riflettori su un problema vasto che riguarda tutto il paese. Peraltro, come ormai si comincia a dire con sempre più chiarezza, per fortuna, la violenza sulle donne è molto più frequente nelle case, tra le mura domestiche. Non avviene soltanto tra avventori, avviene anche dentro i nuclei familiari. Sì, e questo lo sappiamo, però come potrà ben immaginare Nardella, c'è un tipo di violenza sessuale, di molestia che desta particolare allarme sociale, ed è quella che avviene nelle nostre strade, come in questi casi, no? E questo è molto eclatante, infatti, e credo che sia necessaria una risposta sia in termini di contrasto che di prevenzione. La prevenzione a partire anche dai luoghi della socialità, e non escludo le scuole. Quante volte abbiamo sentito parlare anche di violenza tra i ragazzi, sulle ragazze o anche su internet? È chiaro che poi questo ha un riflesso eclatante, ancor più grave, e che fa quindi anche più notizia quando succede per le strade, nei luoghi diciamo aperti al pubblico. La repressione deve avvenire con le forze dell'ordine, e su questo devo dirle che c'è una grande collaborazione tra Comune di Firenze e forze dell'ordine, però le ripeto, è un pezzo di un fenomeno molto più vasto. Le dico per esempio un'altra cosa. Io di recente ho firmato un'ordinanza contro lo sfruttamento della prostituzione. Ecco, sì, bisogna anche parlare di questo, perché le donne, spesso minorenni, che vengono buttate sui marciapiedi, sono anche loro oggetto di violenza, e da uomini che sono coloro che le sfruttano e che le utilizzano. Nardella, pensate che ci sia bisogno di un maggiore controllo, di qualche misura in più per le vostre strade, oppure no? Oppure la sua risposta, non esiste un caso Firenze, chiude la questione? No, allora, dire che non c'è un caso Firenze non vuol dire cercare giustificazioni ambi, per carità. Anzi, noi siamo consapevoli che Firenze, come tutte le grandi città in Italia e in Europa, deve far fronte col tema della sicurezza. E io mi sono fatto portatore di una serie di richieste a livello anche nazionale, lanciando una campagna per inasprire le pene su determinati reati, a cominciare anche da quelli che hanno appunto come oggetto la donna, anche se in Parlamento è stato già fatto molto in questi ultimi anni. Stiamo investendo molto sulle telecamere di videosorveglianza. Per esempio, negli ultimi 4 anni abbiamo avuto 3 femminicidi in città. Grazie alle telecamere, quantomeno abbiamo aiutato in modo decisivo la polizia nel portare a conclusione le indagini per trovare i responsabili. Altro punto, combattere il tema dell'alcol e dell'abuso di alcol, perché questo aspetto dell'abuso di alcol purtroppo aggrava il fenomeno e espone le donne fragili ad una situazione di maggior rischio. Sì. Abbiamo da 2 anni una regola che vieta la vendita da sport alcolici e superalcolici. Attenzione, questo non deve essere Nardella, guardi, la dico brutale perché poi dobbiamo chiudere. Servono più uomini o no? Ci vogliono anche più controlli in termini di uomini sul territorio. Io ne ho parlato al ministro Minniti. Ci vogliono più e ve li darà? E ve li darà più uomini? Il ministro mi ha detto che non solo Firenze, ma anche le altre città avranno più uomini nelle prossime settimane. Ma mi permetta, infine, di insistere su un aspetto. La violenza sulle donne la si affronta sia con le forze dell'ordine e i controlli in città, ma anche con la educazione, la formazione, perché questo è un problema sociale e culturale. Se noi lo guardiamo anche da questo punto di vista, facciamo finta ipocritamente. Su quello, guardi Nardella, devo chiudere, su quello non c'è dubbio, mi limito a dire solamente che il lavoro culturale è molto lungo e quindi nel frattempo un po' di repressione non fa male. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e poi parleremo di un villino degli anni 30, forse ne avrete sentito parlare, nel quartiere Coppedè a Roma, che è stato abbattuto per far spazio ad un nuovo edificio nel silenzio della soprintendenza, che ha dato il suo via libera, nel silenzio del Ministero dei Beni Culturali, che ha dato il suo via libera, e con una certa rabbia da associazioni e associazioni di quartiere. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. Tra Libia, Malta e Italia, la rete che contrabbandava gasolio in Europa, 6 gli arresti. Banca d'Italia, l'attacco del PD sorprende Padoan e il governo. Oggi al via i lavori della commissione sulle banche. L'autonomia, la vigilia del referendum in Lombardia e Veneto, l'Emilia Romagna si muove e apre le trattative col governo. Calcio, dopo la sconfitta del Napoli a Manchester questa sera, tocca la Juventus contro lo Sporting e alla Roma contro il Chelsea. Infine, una notizia appena battuta dalle agenzie: è morto ieri sera nella sua casa di Cetona all'età di 92 anni lo storico Rosario Villari, ex parlamentare del PC, ma soprattutto un grande storico, membro dell'Accademia dei Lincei. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con quello che è stato il nostro tormentone per tutta la stagione passata di Effetto Giorno e che in parte continua ad esserlo, ossia la vicenda di Igor Vaclavich, ossia Norbert Fehr, insomma Igor il Russo, lo sapete, il killer del barista di Budrio e di Valerio Verri, guardia volontaria, e che è scomparso nelle campagne del Ferrarese e che è stato al centro di una caccia all'uomo enorme e non è mai stato trovato. Torna da noi Daniele Predieri, che è cronista della Nuova Ferrara. Ciao Daniele, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Succede che indaga anche la Procura Militare a questo punto? Sì, succede, questo diciamo così è un fascicolo che è stato aperto dai magistrati militari della Procura di Verona sulla base diciamo di quello che era stato scritto, che la Nuova Ferrara aveva anticipato un mese e mezzo fa ad agosto, pubblicando gli atti dell'operazione di quella sera, cioè dei 3 carabinieri che misero a verbale un'annotazione di polizia giudiziaria il fatto che lo spararono a Igor, nonostante l'avessero incrociato 3 volte, perché gli venne comunicato dalla centrale operativa dei carabinieri di aspettare i rinforzi e di non fare nulla. Ah. Sì. Tre volte lo incrociarono? Sì, 3 volte, perché noi avevamo dato la ricostruzione, ma la ricostruzione è sulla base degli atti, cioè dell'annotazione di polizia giudiziaria che venne fatta proprio la sera stessa dell'8 aprile, in cui si dava conto del fatto che la pattuglia, una pattuglia di carabinieri civili ovviamente, incrociò Igor e Norbert, che era in fuga dopo aver ucciso Valerio Verri, lo incrociò dalle parti dell'Argentano. E dal primo momento loro furono subito in contatto con la centrale operativa dei carabinieri, lo inseguirono e arrivarono in uno spiazzo nel punto in cui, da cui dopo lui è scomparso, arrivarono in questo spiazzo vicino in una stradina di campagna, vicino a un bosco, un boschetto piccolo, e lui se ne andò via, guidava un furgone fiorino. Lui sceso dal fiorino e si addentrò in questo boschetto. Ecco, i carabinieri erano lì a 50 metri, 50 metri armati di pistola e di mitragliatrice. E il fatto è che Igor tornò indietro in un secondo momento a riprendersi lo zainetto dal cassone del furgoncino, e quindi diciamo questa era la seconda volta. E poi è ritornato nel boschetto. Abbiate pazienza, cioè io so che poi ci sono delle famiglie coinvolte, la famiglia del povero Verri, la famiglia del barista di Budrio, ma fa... Insomma, è passato davanti ai carabinieri 3 volte, si è andato a riprendere anche lo zainetto che si era dimenticato dentro il fiorino e passa davanti ai carabinieri con la mitragliatrice e la pistola, e questo passa e va e rientra nel boschetto in tutta serenità e poi scompare nel nulla e chissà dov'è adesso. Grazie Daniele, grazie come ciao, sempre. Alla prossima, ciao, Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara. Oreste Rutigliano, presidente di Italia Nostra, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Per cosa? Per questa storia che sta facendo discutere, soprattutto a Roma, lo dico all'ascoltatore, non è che ci occupiamo del che ci ha scritto su questo, non è che ci occupiamo del quartiere Coppedè perché stiamo attenti solamente ai ricchi. No, ci occupiamo del quartiere Coppedè perché c'è questo villino degli anni 30 che però aveva anche avuto un rialzo negli anni 50, era stato più volte rimaneggiato, che è stato abbattuto per far spazio ad una nuova costruzione progettata dal presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e che sostituirà questo villino che è degli anni 30 e che voi ritenete, Rutigliano, che abbia un valore storico o quantomeno paesaggistico importante. Sì, esattamente, noi ci rifacciamo a quello che hanno già studiato quelli che hanno fatto il piano regolatore di Roma nel 2008, i quali hanno sentito il bisogno di fare una carta della qualità, cioè a dire una carta di piano regolatore in cui andavano a indicare graficamente le parti di Roma al di fuori anche delle mura aureliane che rivestono un valore storico e quindi di qualità, sì, oltre che di testimoniale, sì, anche di qualità architettonica, di ambientazione di una certa, sì, epoca. Però, e che pertanto andavano, allora, noi abbiamo veramente pochissimo tempo, Rutigliano, siamo andati un po' lunghi col resto, però se la soprintendenza ha detto che non c'è problema, se sono arrivati tutti via libera anche al Ministero dei Beni Culturali, come dire, non è che dobbiamo mantenere tutto il patrimonio artistico solamente perché è di una certa epoca, no? O di il patrimonio culturale, perdono, paesaggistico solamente perché è di una certa epoca. Cioè, alcune modifiche possono essere fatte o no? Guardi, la cultura della conservazione intende conservare i tessuti, non i singoli monumenti. Il grande passo avanti fatto dalla cultura italiana negli anni 50 è stato quello di passare dal singolo monumento, il villino meraviglioso del Coppedè, al contesto di tutto il quartiere del Coppedè. Ecco, questo è quello per cui ci battiamo. Questo è stato per certi versi recepito come principio, sì, anche dalla politica. L'abbattimento di quel villino è stato fatto per fasi, per cui quando è stata chiesta la verifica, sì, alla sovrintendenza, questa non sapeva che poi un giorno l'avrebbero abbattuto, ha detto in realtà l'hanno sopraelevato, si sono detti è inutile che ci diamo un nuovo lavoro, diciamo che non ci interessa vincolarlo in questo momento. Quindi lei dice che le cose sono andate così. Allora, si è chiusa così, Rutigliano, no? Rutigliano, io la devo veramente salutare. C'è il traffico, comunque anche questo rientra nei temi di dibattito, a quanto pare soprattutto nella capitale sul tema, tra l'altro è intervenuto anche Vittorio Sgarbi, forse qualcuno di voi l'ha sentito l'altro giorno alla Zanzara. Traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.